Ciao, buongiorno a tutti. Sono Barbara e questo è l'undicesimo episodio di Yogurt Acid Care in vista del secondo lockdown. Yogurt Acid Care è il mio progetto, è una visione estensiva e fluida dello yoga visto come cura per l'individuo radicale. Applicata però in un contesto non bucolico, ma quello frenetico e urbanizzato in cui viviamo. Scusatemi se in questi giorni parto leggermente in ritardo, ma ho dei problemi con il supporto di Mix, il software che ci permette di andare in onda. Sta lentamente collassando tutto. Questi episodi di Yogurt Acid Care rappresentano una piccola serie di 14 puntate. Ogni episodio è andato in onda per ora alle 10, tranne ieri che era eccezionalmente alle 12. Parlo di mantra e dei 7 switch per la felicità. Se vi perdete un episodio, no problem, sono tutti nell'archivio di Radio Virus. Sono anche nel mio Mixcloud personale. Il link lo trovate assieme ad altri link utili per lo yoga sulla mia pagina Instagram, quindi chiocciolina Barbara Lamulas. La puntata di oggi è dedicata al mantra Om Gam Ganapataye Namaha ed è il mantra dedicato a Ganesha. Vedremo tra un secondo di che si parla. Ricordo che sono i mantra, sono il cibo per la nostra mente, per la nostra anima, avendo una connessione diretta con questa, sia per il suono, le vibrazioni connesse. Le frequenze connesse al suono, sia per il significato che inglobano. Si dice che vadano recitati 108 volte perché i 9 pianeti, muovendosi attraverso le 12 costellazioni, creano questi 108 effetti sulla nostra vita. I mantra si possono ripetere mentalmente o verbalizzare, e si possono verbalizzare in maniera neutra, monotona, oppure con una melodia. I mantra sono una cosa che richiede esperienza e devozione, per cui io in questo momento non mi sento di dare alcuna melodia ai mantra, se non di suggerirvi di applicare la tipologia che più vi viene comoda. Considerando che questa è una cultura che non ci appartiene, ma che siamo curiose di conoscere in maniera rispettosa. Piccolo disclaimer, quindi viene naturale, non sono una storica della disciplina, sono tra le tante cose nella mia vita una praticante devota e insegnante di yoga e qua voglio solo condividere qualcosa che ha fatto ragionare e sentire meglio me in primis, because sharing is caring. Thank you. Vi racconto qualcosa su questo mantra prima di iniziare la pratica. Om Gam Ganapataye Namaha. Stiamo invocando Ganesha, colui che rimuove gli ostacoli. In inglese le parole sono così semplici, remover. In italiano bisogna aggiungere cose laterali. Ganesha è colui che rimuove gli ostacoli. E quindi ciò che stiamo dicendo qua è che ci arrendiamo a lui e vogliamo che ci aiuti a rimuovere gli ostacoli che ci stanno attorno. Ganesha è una divinità hindu, è quel carinissimo, ometto elefantino. Il signore della conoscenza, non solo colui che rimuove gli ostacoli, ma in generale è il master of knowledge, signore della conoscenza. Il suono Gam è il bija mantra di Ganesha, come abbiamo visto che Shrim era il bija mantra di Lakshmi. Con questo mantra, quello che stiamo cercando di fare è di invocare il suo aiuto perché pulisca il nostro percorso quando ci sentiamo bloccate sia fisicamente che mentalmente, ma anche a livello creativo, quando abbiamo bisogno di un cambio di prospettiva o quando ci sentiamo che la vita è particolarmente challenging, particolarmente difficile, ci mette alla prova e non sappiamo esattamente perché, allora lì invochiamo l'aiuto di Ganesha. Cenno storico, è una divinità hindu, è il figlio primogenito di Shiva e Parvati, viene raffigurato con questa testa di elefante provvista di una sola zanna. Ha il ventre pronunciato e quattro braccia, e di solito viene servito da un topo o lo cavalca. Spesso Ganesha è rappresentato seduto con una gamba sollevata da terra e ripiegata sull'altra in Lalitasana. Tipicamente questo suo nome Ganesha è preceduto da il titolo di rispetto induista Shri. È il signore del buon auspicio, dona prosperità e fortuna. È il distruttore degli ostacoli di ordine materiale e spirituale. Per questa ragione se ne invoca la sua presenza e la grazia prima di iniziare una qualsiasi attività un po' impegnativa, un viaggio, un esame, un colloquio, un affare, cerimonia, qualsiasi evento che per noi sia importante. È anche una tradizione per questo motivo iniziare le sessioni di Bhajan, che sono i canti devozionali, con un'invocazione a Ganesha perché il canto sia un buon canto. In generale, Ganesha come figura mi piace molto perché rappresenta l'unione di femminilità e mascolinità. E anche lo spezzare di queste dualità. Dualismo con Ganesha non ha più senso. Il fatto che anche una sola zanna e a mezza testa di animale corpo umano rappresenta la nullità del dualismo. Il suo mantra di oggi, che reciteremo assieme, è Om Gam Ganapataye Namaha. Io mi arrendo a te, Signore di tutti gli esseri. Ganesha significa Lord of all humans, all human beings. Io mi arrendo a te. Om Gam Ganapataye Namaha. Sperando che mi aiuterai a rimuovere gli ostacoli di questa giornata. Siamo pieni di ostacoli, ogni giorno è una nuova sfida. Dobbiamo affrontare in questo momento il tempo, il planning, l'organizzazione del nostro tempo in una maniera veramente a breve termine e senza troppe aspettative. La nostra ambizione è un po' strozzata. Siamo costrette a rallentare. Siamo sempre poste davanti a nuove cose da dover risolvere. La capacità di adattarci in questo nuovo sistema che ci sta un po' sdrenando è ciò che ci permetterà di andare avanti, no? Alla fine solo le specie che si adattano sopravviveranno e non ci aspettiamo che tutto torni come era prima, si spera anzi che niente torni come era esattamente prima, perché la normalità era un problema. In ogni caso, come dicevo prima, ci si deve adattare e solo le specie che sono più capaci ad adattarsi saranno quelle che sopravviveranno. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Direi che ci possiamo preparare per la nostra meditazione. Un dettaglio che non vi ho raccontato, piccolo piccolo, di Ganesha, è che il culto della sua divinità è molto antico. E arriva, le prime tracce arrivano dal primo secolo avanti Cristo. Om Gam Ganapataye Namaha è il mantra di oggi. Om, invochiamo, salutiamo, Gam, il suono, Bija Mantra di Ganesha, Ganapataye, invochiamo la liberazione dagli ostacoli, Namaha, un'altra invocazione di ringraziamento. Ci prepariamo questa meditazione facendo qualche movimento per svegliare il corpo, strecciamo le braccia oltre la testa, allunghiamo la colonna, from side to side. Muoviamo la cassa toracica. Se abbiamo la possibilità di muovere anche le anche e la zona pelvica, facciamolo. quando abbiamo mosso il nostro corpo, risvegliato il nostro corpo, possiamo trovare una posizione confortevole che può essere sdraiata con la pancia rivolta verso l'alto o seduta in una posizione corretta con la colonna, cercando di non collassare su noi stesse. Iniziamo la nostra meditazione con un piccolo percorso yoga nidra di sensitivizzazione del corpo, no, sensorializzazione, scusatemi, cervello lento. Chiudiamo gli occhi e rivolgiamo tutte le attenzioni all'interno. Inspiriamo ed espiriamo solo col naso. Se abbiamo gli occhiali, li leviamo per un istante. Inspirando, l'addome si gonfia ed espirando si sgonfia. Ascolto tutte le zone di contatto del mio corpo con la superficie che lo supporta. Senza giudizio né interazione, abbraccio le sensazioni. Con questa connessione provo a sensorializzare ogni singola parte del corpo e rilassarla. Parto uscendo dalla mia testa e andando con attenzione ai sensi all'interno dei piedi. Sento i miei piedi inspirando e li rilasso completamente, espirando. Sento poi il retro delle gambe. E con un espiro lo lascio andare per poi percorrere il fronte. Sento e rilasso anche il fronte delle mie gambe. Porto i miei sensi al pube e all'addome. E lentamente, espirando, rilasso gli organi genitali e gli organi interni all'addome. Lascio andare il diaframma e rivolgo i miei sensi al torace. Sento e rilasso completamente la cassa toracica, i polmoni, le clavicole, le spalle. Rivolgo i sensi alla schiena. Espiro dopo espiro, rilasso ogni singola vertebra sino alle vertebre cervicali. Lascio andare le spalle e sento e percorro il retro delle braccia. Lo lascio andare, arrivo alle mani, distendo completamente le tensioni da torso delle mani, dita, palmi, polsi e percorro le braccia in salita, tornando alle spalle. Sento il retro del collo e la gola e cerco di rilassarli espirando. Lascio andare completamente la gola. Poi sento i capelli, rivolgo le mie attenzioni al capo. Sento i capelli uno a uno. E uno a uno cerco di lasciarli andare per poi passare a sensorializzare la superficie del mio viso. Espirando, distendo completamente tempie, zigomi, guance, orecchie, mascella, tutto. La muscolatura facciale si rilassa, rilasso anche la bocca, la lingua, dischiudo denti e labbra ed espirando lascio che il mio viso sia sorridente e raggiante. Distendo poi le narici, sento l'aria attraverso le narici, inspirando ed espirando le due velocità e temperature. Lascio andare tutte le vie aeree. Elimino poi le tensioni anche dagli occhi, le palpebre, le sopracciglia. Lascio andare i movimenti oculari. Rivolgo infine tutti i miei sensi e la mia attenzione al centro della fronte, all'incavo tra le due sopracciglia dove risiede il terzo occhio, il nostro Ajna Chakra. Vedi, chiama questa parte del corpo qualche respiro più profondo ancora. Cerchiamo di eliminare le tensioni che si accumulano in questa parte del corpo sotto forma di onde. Sono tutte le nostre attività neurali passate. Liberiamo la fronte per permettere una meditazione più leggera, più profonda. E per far sì che la nostra giornata abbia nuovo spazio per nuove attività neurali. Rilasso completamente la mia fronte. Osservo il mio corpo dall'interno. Il mio respiro, la mia mente, e cerco di mantenere questo contatto, questa connessione durante la pratica del mantra che lentamente inseriamo. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Inseriamo il mantra durante l'espiro. Inseriamolo in maniera dolce, senza forzare né la sua lunghezza né il ritmo del respiro. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ognuno va avanti in maniera individuale. Cerchiamo di mantenere il viso e la fronte rilassati, anche il collo e il petto. Siamo consapevoli sulla nostra postura e le reazioni del mantra sul nostro corpo. Om Gam Ganapataye Namaha. Sarete invitati ad abbandonare il mantra quando sentirete la campanella suonare. Om Gam Ganapataye Namaha. Lentamente abbandoniamo il mantra. Facciamo qualche respiro più profondo per rilassare di nuovo il nostro corpo, risvegliarlo lentamente. Se vogliamo interrompere la meditazione, iniziamo muovendo le dita delle mani e dei piedi prima di qualsiasi altra cosa, prima di riaprire gli occhi. La puntata di oggi termina qui. Riguarda i 7 Switch for Happiness. Siamo al quarto, li abbiamo già visti tutti, ma vorrei che portaste una riflessione personale su il peso che questi 7 Switches hanno avuto nella vostra settimana passata. Senza giudizio, una constatazione, un'osservazione. Il quarto switch, una settimana esatta fa, parlavamo di indulge, vivere al meglio, permettersi qualcosa che ci faccia sentire bene. Come avete sviluppato questo pensiero? Che cosa vi siete permessi? Quale gesto avete fatto, quali gesti durante questa settimana che vi ha fatto pensare che quella era la maniera per assaporare al meglio la vita o quel momento? Costantemente possiamo decidere di viverci le cose al meglio o in maniera parziale. È un po' misera. Ogni mattina ci svegliamo, apriamo gli occhi e abbiamo davanti due opzioni. Una è: mi sveglio e sono contenta di avere la possibilità di vivere un'altra giornata da capo. I'm gonna live the fullest, vivrò al 100%. La seconda opzione è: mi sono svegliata, il mondo è miserable, una schifezza, e mi sento una schifezza come il mondo. You are not living the fullest. Non stiamo vivendo al meglio, ci stiamo semplicemente abbandonando a quello che è la situazione attorno a noi in maniera passiva e non determinata. Determiniamo come ci sentiamo. Proviamo a farlo durante il resto della giornata. C'è anche un bel sole qua a Milano. Live the fullest, viviamo al meglio questa giornata. Spero sarete in grado di ricordarvi la settimana passata e come ne avete approfittato da questo punto di vista. Io vi abbandono così. Questo era l'11° episodio di Yogurt Acid Care e vi ringrazio che ascoltate le mie parole. E spero che vi siano utili almeno un minimo. Ciao.